in primo piano. Buongiorno, buon venerdì da Giulia Crivelli, bentrovati alla nostra rassegna stampa dei quotidiani e approfitto per ringraziare subito un ascoltatore che ancora prima che iniziassimo la trasmissione mi augura un buongiorno e auguri per questa stagione di feste. Io i miei ve li farò alla fine, ma anche domani, perché chi vorrà ci sentiremo anche domani, e ringrazio comunque tutti quelli che vorranno mandare altri messaggi al 349-238-6666 SMS o WhatsApp. Abbiamo poco tempo prima della pausa per il traffico e vi segnalo la prima pagina del Sole 24 Ore, anche se come ieri poi Mauro Meazza ci racconterà meglio tutto quello che dobbiamo leggere religiosamente o meditare oggi tra gli articoli del Sole 24 Ore. Il titolo è dedicato ancora una volta alla questione più importante dal punto di vista economico per il nostro paese, ma anche sul piano europeo, che è quella del salvataggio di MPS, un salvataggio che potrebbe costare o 5 miliardi di ricapitalizzazione, come aveva previsto inizialmente il governo, o 8,8 come chiede la BCE, e che comunque non sarà facile delineare nei dettagli, perché da qui il titolo del Sole 24 Ore, c'è un terzo soggetto qui ed è Francoforte. Cioè, Francoforte è inteso non solo come BCE ma anche come Bundesbank, la banca centrale tedesca, e in generale le critiche che vengono dalla Germania su questo salvataggio di MPS, che lo ricordiamo è il primo dopo che sono entrate in vigore il primo gennaio del 2016 le nuove regole per i salvataggi bancari, che escludono i salvataggi di Stato e prevedono invece il bail-in, cioè il salvataggio dall'interno. Quindi il titolo: tensioni Roma-Francoforte, ora trattativa sul piano MPS. La famigerato consiglio di vigilanza della BCE, che lo ricordiamo sempre, non è dal governatore della BCE che è arrivata questa richiesta di 8,8 miliardi, ma dal consiglio di vigilanza guidato dall'economista Nui. Quindi la vigilanza sarebbe pronta al dialogo sul nuovo business plan. Questo è il titolo del Sole 24 Ore. Alla questione è dedicato anche l'editoriale del nostro direttore Roberto Napoletano, nostro del Sole 24 Ore e di Radio 24, che inizia in prima pagina e poi trovate a pagina 20, le chiavi di potere del club franco-tedesco e il conto che paga l'Italia. Quindi un'analisi anche di come, soprattutto in passato, c'era questo asse franco-tedesco che forse ora tornerà, e il fatto che l'Italia sia sempre un po' trattata, purtroppo ancora adesso, come appunto la sorella malandrina dell'Unione Europea. Geopolitica, banche, sistema paese, le colpe nostre e quelle degli altri. Ci lasciamo però un attimo, come vi dicevo, per un primo aggiornamento sul traffico. In primo piano. Ancora buongiorno, buon venerdì da Giulia Crivelli. Abbiamo visto la prima pagina del Sole 24 Ore che apre sulla questione MPS. Oggi, un po' come ieri, non tutti i giornali hanno la stessa apertura, anche se i due grandi temi, oltre a MPS per quanto riguarda l'economia, sono la conferenza stampa di fine d'anno del Premier Gentiloni e le ultime mosse di Obama, che in parte abbiamo visto anche ieri, in politica estera. Da qui il titolo del Corriere della Sera: Obama, due punti, via le spie russe. Come avete sentito anche nel GR, questa mossa proprio negli ultimi giorni della presidenza Obama, il 22 di gennaio si insedierà Donald Trump ufficialmente, sono appunto riguardano per esempio l'espulsione di questi 35 agenti russi. Vi segnalo poi subito a pagina 2, perché io stessa ieri mi chiedevo e chiedevo ai colleghi che si occupano di esteri, ma come funziona poi, perché sembra appunto un ultimo colpo di coda di Obama, che su molti temi in politica estera, non solo, non ha mai nascosto di essere completamente in disaccordo con Trump, e Trump ha fatto lo stesso, quindi non è una così misure che rischiano poi di essere corrette tra 20 giorni. Non è così, perché ci spiega un articolo a pagina 2 del Corriere della Sera che questa dei diplomatici russi è una vera sfida a Trump, perché se Trump le rimuove queste sanzioni, entrerà in rotta di collisione con l'intelligence americana, perché è l'intelligence americana che ha fornito questi dati che mostrerebbero come gli hacker russi abbiano effettivamente tentato o forse proprio influenzato le elezioni americane, che è la ragione della rabbia di Obama. Sempre riguardo all'America, è la fotonotizia del Corriere della Sera, una Hillary Clinton assorta a guardare il suo smartphone, sta facendo colazione in un bar, quello che noi qui chiameremo bar, in una caffetteria a Mountain House, nello stato di New York dove vive, e sullo sfondo c'è una bella stella di Natale. Io non vedo niente di anormale in questa foto, invece secondo il lungo articolo poi di Paolo Di Stefano è l'inevitabile solitudine degli ex numeri primi, andare sempre più in alto e poi essere precipitati giù, come scrive Shakespeare nel Riccardo III. Capita, è il tornare alla normalità per chi è stato un numero primo, così come è successo a Hillary Clinton fotografata sola al cellulare. Io ipotizzo anche che lei sia contenta di essere di ricominciare a godersi la sua solitudine o comunque la sua tranquillità, ma appunto Paolo Di Stefano ci ha costruito intorno un articolo che poi trovate a pagina 15. Il giornale ve lo segnalo perché l'altra notizia importante di ieri di politica estera è questa tregua che è scattata alla mezzanotte siriana. È una tregua frutto degli intensi negoziati di Vladimir Putin con il presidente della Siria Bashar al-Assad e con anche il supporto dell'Iran, mentre sono, come abbiamo detto anche ieri, sono rimasti completamente esclusi da questo processo di pace, potremmo dire così, anche se appunto è tutto da verificare cosa succederà nei prossimi giorni, come del resto ha ammesso lo stesso Putin, dicendo che si tratta di accordi molto fragili, molto delicati. In ogni caso, Europa e ONU completamente fuori, Europa, ONU e Stati Uniti completamente fuori da questi accordi di pace. Il giornale, con un certo Matteo Carnieletto, in prima pagina pubblica una foto di Bashar al-Assad che Matteo Carnieletto ha incontrato a Damasco. Il titolo dato a questa intervista è "L'Europa sta aiutando l'ISIS a colpirla". Poi il titolo principale in realtà del giornale è "Allarme autobombe sul Capodanno", con un'analisi di tutte le misure di sicurezza che stanno prendendo le grandi città, anche le grandi città italiane. Ma questa supposta intervista, incontro a Bashar al-Assad, se, davvero è interessante. Primo, perché comunque non è una domanda e risposta, ma è scritto come se fosse un dialogo. La parte di Assad, non so, è tra, no, io non credo che abbia parlato così, perché è veramente un uomo che, se parla così nella sua lingua, come minimo ha insomma, un po' di sciatteria, potremmo dire così. Ma poi, soprattutto, pare essere, insomma, fa delle affermazioni che. So, mi piacerebbe che questo colloquio l'avesse fatto il nostro Alberto Negri, sicuramente avrebbe avuto molto da rispondere ad alcune delle affermazioni di Assad, che viene un po' trattato come se fosse un qualunque leader legittimo di un paese democratico. Scrive Carnieletto: "I cristiani sono stati tra coloro che hanno sofferto di più nella guerra, perseguitati e uccisi solamente perché credevano in Gesù, ma assicura Assad avranno certamente un ruolo nella ricostruzione del paese assieme alle altre minoranze". Due punti, aperte virgolette, quindi qui dovrebbero essere le parole di Bashar al-Assad. "Se guardi la Siria non solamente oggi o negli ultimi 2 giorni, ma nell'ultimo secolo, puoi notare come sia sempre stata diversificata". Ecco, poi questa idea che gli abbia dato del tu. Vabbè. "È sempre stato un melting pot di religioni e di etnie. Senza questa diversità non ci sarebbe la Siria. Parlo ovviamente della Siria come società prima della guerra". Vabbè, comunque trovate questa intervista a pagina 5. Secondo me appunto interessante per me anche dal punto di vista giornalistico, ma perché spicca appunto questa libertà con la quale Bashar al-Assad ha fatto affermazioni che anche chi non è espertissimo di politica estera potrebbe contestare, perché di fatto, io questo lo dico senza tema di essere smentita, è un sanguinario dittatore. La Repubblica titola sulla conferenza di fine anno di ieri di Gentiloni "Le riforme da salvare", una delle cose che ha detto Gentiloni, su cui hanno insistito molti commenti, è appunto quelle le grandi riforme che il governo Renzi aveva avviato o fatto e che adesso comunque vengono messe in discussione, una su tutte il Jobs Act, 3 articoli del quale potrebbero essere sottoposti a un referendum, lo sapremo l'11 gennaio quando si esprimerà la Corte di Cassazione, la Corte Costituzionale su questo. Però però il Jobs Act, la riforma della scuola, la riforma della pubblica amministrazione, quindi questo è il titolo principale per la Repubblica. Vi segnalo un bell'articolo, a me piace sempre molto, so che non è così per tutti gli ascoltatori, ma come diceva Franca Sozzani, scomparsa giovedì scorso, non si può piacere a tutti e soprattutto non si deve. C'è un bell'articolo di Francesco Merlo intitolato "Dopo Matteo il potere grigio", è proprio un confronto tra lo stile di Matteo Renzi e lo stile di Paolo Gentiloni. Dopo magari ne leggeremo una piccola parte, inizia in copertina e continua a pagina 7. Mi ha fatto molto effetto, invece la trovo proprio una notizia triste, di questa furbata. Succede, forse ricorderete che c'è stato una delle misure del governo Renzi, il cosiddetto bonus cultura per i diciottenni, che possono spenderlo per teatri, cinema, libri, e si scopre che alcuni di questi diciottenni che hanno avuto questo bonus legittimamente rivendono i libri del bonus cultura. E poi c'è stata anche una rivolta sul web contro questi furbetti, ma il fatto stesso che sia successo, secondo me, appunto, è tristissimo. Non si esce in Italia da questa logica delle piccole furbizie. La Stampa invece sceglie di titolare sulla mossa di Obama, un po' come ha fatto il Corriere, anche se il titolo del Corriere è a centropagina, mentre nella parte alta c'è la cronaca sulla conferenza stampa di Gentiloni. Invece per La Stampa è proprio il titolo principale: "Il ritorno della guerra fredda. Obama espelle 35 agenti russi". La foto della copertina della Stampa è molto bella, meriterebbe quasi di essere vista su carta patinata, e ritrae Vladimir Putin e Barack Obama a un vertice internazionale, e dagli occhi, dalla postura dei due si capisce quanto in fondo poco abbiano in comune. Il Messaggero, titolo simile: "Russia, ultimo schiaffo di Obama", e questo riferimento al fatto che il presidente uscente ha espulso 35 diplomatici di Mosca, giustificando appunto per le interferenze nel voto americano che sono state segnalate dalla CIA, dall'intelligence americana. Un aggiornamento in prima pagina anche sulle indagini sui movimenti prima dell'attentato del 19 dicembre e dopo del terrorista Anis Amri, che sappiamo era tunisino. La foto ritrae la madre di Anis Amri che mostra un ritratto del figlio, e poi ci sono tutti appunto gli aggiornamenti sulle indagini, perché viene confermato quello che ha scritto già ieri il Messaggero, che Amri era in fuga verso Roma e che 5 mesi fa era stato a Latina. Un articolo su quella che viene definita la transizione traumatica della Casa Bianca di Massimo Teodori in prima pagina del Messaggero, molto interessante anche questo. E poi un aggiornamento su quel terribile fatto di cronaca di 2 giorni fa, il crollo di questa casa nella palazzina di Acilia a Roma, e le prime indagini anche qui ipotizzano che il crollo sia stato causato da una fuga di gas, ma non casuale o frutto del fato. In realtà c'erano delle bombole illegali di una famiglia che abitava lì vicino, di immigrati tra l'altro, e che erano già state segnalate dagli abitanti, anche dalla famiglia che poi ha perso 2 dei suoi componenti, madre e figlia, in questo scoppio e crollo della casa. Ultimo titolo prima di fermarci un attimo per una breve pausa, quello dell'Unità, che è simile a Messaggero e Stampa: "Guerra fredda, Obama espelle 35 diplomatici russi". E poi però in prima pagina, con molta enfasi, anche la brutta, triste notizia del call center Almaviva, che chiude definitivamente la sede di Roma, e la fine d'anno, il capodanno di 1666 persone che lì lavoravano, sarà all'insegna appunto della lettera di licenziamento, perché è saltata la mediazione. Sapete che invece ha funzionato quella con i lavoratori di Napoli, con delle condizioni sicuramente dure, di riduzione dello stipendio, il piano prevede anche che tra qualche mese si veda se i tagli già fatti portano a qualche miglioramento dei conti, però forse appunto i lavoratori di Napoli hanno giudicato che fosse meglio quello rispetto al licenziamento. Non ha funzionato così a Roma. Ci fermiamo solo un attimo e ci ritroviamo tra poco. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, buon venerdì, eravamo sulle prime pagine dei giornali. Ringrazio ancora tutti gli ascoltatori che mandano messaggi al 349-238-6666 o via SMS o via WhatsApp. Vi segnalo la prima pagina dell'Avvenire perché il titolo principale è dedicato alla conferenza stampa di fine anno del Premier Paolo Gentiloni, ma naturalmente si può scegliere di titolare su tante cose. Abbiamo visto la Repubblica sceglie il tema delle riforme che Gentiloni vuole portare avanti, invece l'Avvenire usa il virgolettato battere la povertà, perché Gentiloni ha parlato anche di reddito, definendolo reddito di inclusione, cioè una variante comunque del reddito di cittadinanza, e ha detto: le mie priorità sono il lavoro, il sud e i giovani. E tutta la cronaca poi la trovate alle pagine 4, 5, 6 e 7 dell'Avvenire, che mette in prima pagina anche altre due notizie che gli altri giornali si dimenticano di dare. Una riguarda una battaglia che l'Avvenire porta avanti da tanto tempo, che è quella contro il gioco d'azzardo, che sapete paradossalmente è un danno sociale, perché molte delle persone che giocano d'azzardo poi cascano nella vera e propria ludopatia, e però lo Stato incassa su tutti i giochi d'azzardo. E l'Avvenire ricorda le cifre record dell'azzardo di quest'anno e lo definisce il giro d'affari dei giochi d'azzardo uno spreco da 95 mila miliardi. Gli italiani hanno giocato 95 miliardi di euro, 260 milioni al giorno, 10,8 milioni all'ora, quasi 181 mila euro al minuto, 3012 al secondo per la precisione. Un livello mai raggiunto da quando l'azzardo è stato legalizzato. L'altra notizia, vi dicevo, solo sull'Avvenire, un aggiornamento dallo Yemen, perché ci dimentichiamo che anche lo Yemen è un paese tormentato da guerre civili interne, guerre tribali, e anche problemi economici gravissimi che spesso si legano a quelle, appunto, poi agli scontri tra interni in un paese. Viene definito il conflitto dimenticato, lo scontro tra ribelli e fondamentalisti che devasta lo Yemen. Lo trovate a pagina 21, poi il reportage di Eleonora Ardimagni, perché poi, appunto, oltre alle disuguaglianze economiche, alle divisioni tribali, c'è poi sempre anche questa componente di fondamentalismo religioso in queste guerre che abbiamo imparato a conoscere e poi magari anche ci dimentichiamo. Il giorno, anche il giorno, titola sulla conferenza stampa di Gentiloni, e anche il giorno come Repubblica sottolinea la volontà di Gentiloni: farò le riforme. Però la fotonotizia è dedicata a quella che viene definita la paura meningite. Mi sembra poi forse appunto un titolo un po' che, sì, la paura meningite, ma un titolo così fa venire ancora più paura. Il riferimento però è ai due morti che ci sono stati ieri, un bambino che non era vaccinato e un'altra persona che è un adolescente. Ma il dato che emerge, che forse dovrebbe appunto far riflettere sull'opportunità di vaccinare, è che un bambino su quattro in Italia non è vaccinato. Libero, l'euro ci ha strozzato. Libero, come ieri, prosegue in questa critica molto dura dell'entrata dell'Italia nell'euro, e anche oggi fa pubblica i pareri di economisti e politici. I dati sono questi: pasta, caffè, gelato, vestiti, i prezzi sono aumentati fino al 200% dopo l'addio alla lira, per colpa di un cambio folle. Sapete che molto si è detto e scritto su come sia stato deciso quel cambio che dal 1 gennaio del 1999 diede l'avvio alle transazioni finanziarie in euro, e poi l'anno successivo a quelle proprio in banconote. L'anno successivo fu quello in cui noi cominciamo ad avere banconote e monete di euro nei nostri portafogli. Quindi cambio folle secondo Libero, i salari sono rimasti fermi, così i consumi sono crollati, le aziende si sono svalutate e ora siamo un paese in svendita. Vi segnalo anche dalla prima pagina l'ennesimo esercizio di critica a Papa Francesco. Questa volta sono ben due gli articoli, che poi trovate tutti a pagina 15. Uno è intitolato "Bergoglio sta più in TV che in chiesa. Programmi e TG lo sfruttano perché fa ascolti". Questa è l'interpretazione di Enrico Paoli. E invece Renato Farina, di cui abbiamo parlato anche ieri, altre critiche al Papa per le nuove regole sulla Sacra Rota, che peraltro non sono state imposte dal Papa, ma secondo Farina sono state imposte da qualche funzionario troppo zelante. "Sacra Rota blindata, ora l'avvocato per divorziare lo sceglie il Papa". È un titolo criptico, non mi dilungo nel leggere l'articolo a pagina 15, ma chi vuole lo può leggere e sentire tutte le argomentazioni di Renato Farina. Poi Poi un altro titolo che mi ha fatto effetto, perché anche in questo caso è vero che lo ricordo magari a chi non lo sa, perché non so, però spesso i titoli non vengono fatti dalla persona che ha scritto l'articolo, perché ci sono persone specializzate nel fare l'articolo, che nel fare i titoli, che inevitabilmente cercano di rendere il titolo più accattivante possibile. Però questo titolo, corsie vuote all'ospedale di Saronno, i malati temono di lasciarci le penne. Dopo l'inchiesta che sappiamo terribile sull'anestesista e l'infermiera che quasi certamente si sono resi colpevoli di omicidi all'interno dell'ospedale, ecco, questo titolo poi se uno va a leggere l'articolo dice: beh, ma i dati dove sono, e le corsie deserte? Perché non ci sono dati su questo. È sicuramente vero, lo possiamo capire tutti, che chi abita a Saronno magari entra in quell'ospedale con un po' di paura in più, però questo titolo poi non si rispecchia nel pezzo. Questo volevo dire, e comunque il pezzo a pagina 17, la paura svuota l'ospedale della coppia killer. Però ora dovremmo già avere Mauro in collegamento con noi, perché io ho solo accennato al titolo di copertina del Sole 24 Ore, ma oggi è ricchissimo anche sulla cosiddetta mille proroghe, la ratatouille di fine anno, come la chiama Mauro. Buongiorno Mauro. Buongiorno, buongiorno Giulia, grazie. Sì, allora naturalmente l'attenzione massima, diciamo, le primissime pagine sono dedicate alle vicende bancarie, anche in chiave di trattativa, per usare un termine delicato, con la vigilanza della Banca Centrale Europea a proposito della questione del Monte Paschi di Siena. Allora, riassumiamo per i distratti: in un forum che si è svolto a Sole 24 Ore con il Ministro dell'Economia Padoan, il ministro, con molto garbo e estrema educazione, ha segnalato così una certa opacità da parte della vigilanza nel richiedere appunto garanzie più ampie, più soldi, insomma, garanzie rispetto a quelle preventivate. Allora oggi ritorniamo su questa vicenda. Pare appunto che ci sia una sorta di ammorbidimento rispetto a questa richiesta degli 8,8 miliardi, come sai si parlava di 5 miliardi. Quindi è servito sollevare il problema? No? È servito più che altro per capire quanto questa richiesta sia cogente, costrittiva oppure no, insomma, per vedere come può essere articolato il piano. Poi devo dire, da parte della UE comunque c'è stata il sì, come scriviamo nelle primissime pagine, alle garanzie dello Stato appunto sulla liquidità non solo di Monte Paschi ma anche del sistema bancario, delle altre banche in generale. Quindi ne scrive oggi l'ottimo Beda Romano proprio nelle primissime pagine del Sole 24 Ore. Tra l'altro, come puoi immaginare, sono tantissimi gli ascoltatori che mandano messaggi su questa crisi di MPS, perché poi bisognerà anche parlare del piano, naturalmente, per i dipendenti, ci saranno anche delle conseguenze sul piano occupazionale, e poi continuano a chiedere: ma noi vorremmo vedere la lista di chi delle persone fisiche o delle aziende che hanno avuto questi crediti facili. Forse, tra l'altro, non so se succederà, però Padoan comunque nel famoso forum ha detto che potrebbe anche esserci in effetti un'inchiesta o un approfondimento su questo, cioè capire le responsabilità su come si è arrivati a questi prestiti facili. Ecco, mi confermi, sì, no, che è così, una delle tante... Il ministro si è detto disponibile, ha fatto che fosse appunto un'iniziativa di tipo parlamentare, come mi sembra corretto che sia, e d'altra parte ha ricordato c'è comunque pur sempre un giudice, non solo a Berlino, come diceva la famosa battuta, ma anche in Italia, e quindi... Se ci sono stati dei comportamenti difformi, possono essere perseguiti. Insomma, questa certo. È stata l'indicazione anche dal forum con il ministro Padoan. Dimmi qualcosa sulle termovalvole, please. Oh, beh, guarda, tu diciamo mi inviti proprio a nozze, nel senso che il mille proroghe è uno dei miei provvedimenti preferiti in assoluto. Allora ti voglio dire che dentro questo mille proroghe, che aspettiamo questa sera pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ci sta il pagamento delle pensioni che resta al primo del mese. Si era fatto un po' di tourbillon, per usare un francesismo sulla materia, e però invece resta al primo del mese. E poi ci sono le termovalvole che vengono rinviate di 6 mesi, l'adeguamento, cioè viene rinviato di 6 mesi. E poi ti voglio dire anche il mille proroghe, però interviene sulle questioni delle aree colpite dal terremoto, e quindi ci sono tutta una serie di proroghe che erano state annunciate e vengono ora confermate con un provvedimento vero e proprio, per quanto riguarda ad esempio il pagamento delle rate dei mutui e altri rapporti con le banche e la pubblica amministrazione proprio dalla parte dei cittadini che sono stati colpiti dal terremoto, dallo sciame sismico dell'agosto e dei mesi successivi di quest'anno. C'è invece, come sai, una deroga alla buona scuola, ne parliamo anche sul Sole 24 Ore, ho visto che ne parlano anche altri giornali, ma sai che c'era questo vincolo del triennio di permanenza da parte degli insegnanti. Questo vincolo però viene, come dire, congelato nel corso di un incontro tra il ministro, il neo ministro della materia, cioè Valeria Fedeli, e i sindacati. Quindi una sorta di prima deroga, come riferisce Giorgio Pogliotti oggi a pagina 10, alla buona scuola. E poi interessante, perché secondo me è uno di quei segnali che, nonostante che i critici parlino di governo fotocopia, in realtà è un segnale di discontinuità. È annullata il prolungamento della pensione per i magistrati, giusto? Si è tenuto, sì, no? Infatti c'è una, ne riferiamo proprio nelle pagine 9 tributi, laddove parliamo del mille proroghe. Si aspettava anche questo tipo di intervento, un intervento che non c'è, e infatti la categoria è abbastanza, diciamo, impermalita, ecco, dall'assenza di questo intervento, che peraltro è stato annunciato. Sono arrivati poi i primi 4 accordi per il Patent Box. Il Patent Box è un'altra delle mie passioni. Il Patent Box però è importante, è una, come sai, un'agevolazione fiscale per investimenti di tipo immateriale, cioè sui marchi, sui brevetti, quindi l'innovazione, tutti questi aspetti molto importanti. Ne riferiamo naturalmente nelle pagine dei miei tributi, tu le leggerai religiosamente. Anche perché è un tema che veramente interessa tantissime delle aziende che seguo, che sono quelle del settore della moda e del lusso, quindi... Ma infatti io leggevo attentamente oggi la pagina dedicata al settore moda, che appunto vede questi due articoli a firma di tal Giulia Crivelli, mi pare, e c'è appunto una intervista all'amministratore delegato di DHL, ma anche una segnalazione di un binomio moda e tecnologia, su cui rinviamo poi alle pagine, per non togliere agli ascoltatori il piacere di leggere direttamente a pagina 17 oggi la collega Crivelli. Ecco, non volevo sbagliare il cognome, quindi ho controllato, non so se conosci la collega. Sì, ma di vista. Allora, hai parlato di Almaviva prima, voglio segnalarti nelle pagine di finanza, da leggere come sempre avidamente, tra le molte notizie anche il piano per Alitalia, perché lì si parla di tagli, di riduzione anche di tratte aeree, ne riferisce Gianni Dragoni, c'è un piano che dovrebbe valere sui 500 milioni, quindi non esattamente 4 soldi. L'articolo della meditazione di oggi, un po' complesso ma vale la pena impegnarsi, è il contributo di Roberto Dalimonte e Matteo Cataldi. Ma se si votasse col Mattarellum, cosa succederebbe poi nelle... Mando, naturalmente sono proiezioni rispetto alla situazione politica, cosa succederebbe a chi andrebbe il maggior numero di seggi? Ebbene, la risposta, pagina 21 di oggi, articolo da meditazione su commenti e inchieste. Chiaramente sono proiezioni, lo ripetiamo, non è che nessuno ha vinto, nessuno ha perso in questo tipo di simulazione. A questo punto mi pare che il tempo a mia disposizione sia scaduto. Allora, una volta tanto faccio degli auguri, di solito li faccio per questioni calcistiche, invece questa volta li faccio normalmente, seriamente, perché ci sentiremo sicuramente, cara Giulia, ma ci sentiremo nel nuovo anno. E allora, prima della mia parola abituale di saluto, voglio fare tanti auguri a te, a Peter, che so in cabina anche questa mattina, e a tutti gli ascoltatori. E soprattutto... Traffico! In primo piano. Ancora buongiorno e buon venerdì da Giulia Crivelli, grazie a tutti gli ascoltatori che ci mandano gli auguri, e anche quasi tutti ricordano naturalmente anche Alessandro Milan, che è in vacanza ma tornerà poi il 9 di gennaio, quindi magari ci sta ascoltando da qualche parte, arrivano tanti auguri anche per lui. Torniamo sulle prime pagine dei giornali. Il Manifesto ha una fotonotizia di Gentiloni ieri durante la conferenza stampa di fine anno. Molto critico il titolo del Manifesto e anche il sommario. Muro di gomma, così viene definito Gentiloni, perché secondo il Manifesto ha parlato per ore ma non ha risposto praticamente su nulla. Rivendica la continuità con Renzi, resta vago sui contestatissimi voucher, si smarca dalla legge elettorale e sull'IRPEF nessun discorso serio. La Verità dedica invece la fotonotizia alla vicenda, ne abbiamo parlato anche ieri, della famigerata casa di Monte Carlo, che all'epoca era di proprietà di AN, di cui Gianfranco Fini era presidente. Era stata venduta al fratello della compagna, Elisabetta Tugliani, quindi Giancarlo Tugliani, per una cifra molto inferiore a quella di mercato. Ora si scopre che i soldi di quella casa sono finiti sul conto di Elisabetta Tugliani e, secondo La Verità, si stringe il cerchio su Fini. Il titolo principale, però, come quasi sempre accade per questo quotidiano fondato da Maurizio Belpietro 3 mesi fa, è riferito a un'inchiesta fatta dalla Verità. In questo caso la Verità ha spulciato i dati sulle assegnazioni delle case popolari nei vari comuni italiani e la conclusione è: soldi per la casa dati solo agli immigrati. Tabulati degli aiuti che servono a pagare l'affitto sembrano un elenco telefonico arabo. Agli italiani le briciole. L'inghippo è nell'autocertificazione ISEE. Nessuno verifica se gli stranieri dicono la verità. Il Fatto Quotidiano invece torna sulla vicenda che coinvolge Luca Lotti, ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con Renzi e ora ministro dello Sport. Un virgolettato: Lotti non si tocca, è un po', non ha detto esattamente così Gentiloni, ma probabilmente la sostanza è questa, il Fatto Quotidiano la riporta, e poi dice anche: ritornano i 3 sottosegretari indagati. Come sapete, ieri c'è stata anche le molto attese nomine dei sottosegretari, non è cambiato quasi nulla, tranne Zanetti che è uscito, e poi c'è stato uno scambio tra un sottosegretario al lavoro e uno all'istruzione. Vi segnalo il titolo della Gazzetta dello Sport, sicuramente per chi è appassionato di calciomercato o vuole cominciare a seguire la Gazzetta in questo bilancio del 2016, che poi ognuno fa un po' dal suo punto di vista, la Gazzetta lo fa soprattutto dal punto di vista del calcio. Top e flop, Ranieri e Ronaldo si meritano il 10, top e flop del 2016 in questo pagellone del calcio. Conte e Higuain 8,5, Donnarumma e Belotti sono da 8, Messi e Mourinho giù. Anno prendono 5. Ma vediamo alle pagine interne. Sul Corriere della Sera, richiamata in prima pagina, c'è un'inchiesta di Milena Gabanelli che fa un po' il punto su come potrebbe muoversi l'Unione Europea nel 2017 sulla questione dei profughi e anche cosa si è fatto nel 2016. Il titolo è: Profughi tocca alla UE. I comuni sono pronti a ospitare centri per identificare e formare chi arriva, ma l'Europa dica se li finanzierà. Questo è un po' appunto il punto. Anche, sapete, il Sole 24 Ore ha dato questa notizia in anteprima martedì, che si sta pensando di ripristinare in Italia i cosiddetti CIE, cioè i centri di identificazione ed espulsione, strutture dove vengono trattenuti gli stranieri che arrivano in modo irregolare. Un approfondimento sul Corriere della Sera su una misura che sta per essere presa a Malnate, che è un piccolo comune molto vicino a Varese, quindi qui in Lombardia, che per cercare di convincere con la forza, potremmo dire così, con la legge, i proprietari di cani a essere più educati, ha deciso che con l'anno nuovo ci sarà un censimento di tutti i cani del paese, bisogna presentarsi alla AS per fare un prelievo di saliva e con questo dalla saliva al DNA del cane, e così si potrà poi multare senza se e senza ma il padrone maleducato che, per esempio, lascia sporcare il cane per strada e non tira e non usa il sacchettino per raccogliere appunto i rifiuti organici del cane, diciamo così. La reazione della LAV, che sta per Lega Antivivisezionista, ma in realtà si occupa di animali in generale, non solo di vivisezione, dice: è una misura inutile e troppo costosa, sarebbe meglio usare, se questi soldi ci sono, usarli in altro modo. Una bella notizia di sport sul Corriere della Sera: Parla il papà di Marco Simoncelli, il pilota, il pilota di moto, un talento del motociclismo, morto a solo 24 anni nel 2011. E in questa intervista il papà, appunto, di Simoncelli, Paolo Simoncelli, entrerà nel moto mondiale con un team intitolato al figlio, la mia sfida del cuore, così riporto i colori di Marco. Una bellissima inchiesta della Stampa su tutte le diverse religioni che ci sono in Italia. Sappiamo la religione principale è quella cattolica, ma ce ne sono tantissime altre. Incenso, preghiere e spade, viaggio nelle religioni nascoste. I culti praticati in Italia, pensate, sono oltre 800. Alcune hanno decine di migliaia di seguaci, altri poche centinaia. E l'articolo è scritto da Nicolò Zancan, ma è accompagnato da un reportage fotografico di un fotografo, Gianmarco Maraviglia. Questo avrei dovuto segnalarlo a Mauro, l'avevo messo proprio da parte, ma poi l'ho perso qui nella pila dei giornali. Il giornale dedica un approfondimento all'Inter che verrà. Il figlio del dragone, rivoluzione gentile ad Appiano. Appiano Gentile, sapete dove c'è dove si allena l'Inter. Così Zhang Junior, Steven Zhang, che è l'uomo chiave del proprietario dell'Inter Suning a Milano, e abita a Milano, è l'uomo chiave di Suning a Milano, cortesia cinese, è cresciuto dove ha studiato Trump. Insomma, vedremo se appunto risolleverà le sorti dell'Inter, che vanno risollevate sia dal punto di vista economico che poi appunto sul campo. Vi segnalo anche sempre dalle pagine interne dei giornali, e visto che abbiamo parlato di religioni, da Avvenire, un ascoltatore che dice che io segnalo troppe cose da Avvenire, che Avvenire non conosce i veri problemi del paese. Io credo che con quel titolo dedicato al passaggio di Gentiloni sull'emergenza lavoro, sull'emergenza povertà, sull'emergenza, sulla ancora persistente differenza tra nord e sud del paese, in realtà l'Avvenire identifichi molto bene alcuni dei problemi di questo nostro paese. Però ovviamente ogni opinione è legittima. Ma vi dicevo, in tema di religione, Agorà, l'inserto culturale dell'Avvenire, fa una lunga recensione di questo libro appena uscito, La secolarizzazione debole, pubblicato dal Mulino. La religione non è finita. La secolarizzazione, cioè appunto il fatto che la religione dovrebbe avere meno peso nelle società, giudicata inevitabile negli anni 70, ha invece bisogno di una ridefinizione alla luce degli eventi degli ultimi decenni. E poi un articolo, un intervento che potrei definire bizzarro, di Goffredo Fofi, che ha passato la sua vita a recensire libri e giustamente a promuovere la lettura, e qui con fare un po' così polemico a tutti i costi, diciamo, ma i libri fanno bene davvero, si domanda, e cita alcuni libri, uno uscito di recente che si chiama Curarsi con i libri, dove si dice che appunto leggere fa bene, e soprattutto si possono a volte scegliere dei libri che possono curare alcuni mali dell'anima, naturalmente, in certi momenti della vita. Goffredo Fofi, tutto sommato, non è d'accordo con questo, e si dice d'accordo, facciamo pure questo gioco, però alla fine mette un dubbio che secondo me non fa bene a nessuno, cioè quello che leggere non curi l'anima, in realtà secondo me la cura, poi senza esagerare, senza promettere niente di garantito a nessuno, ma la lettura è, oltre che una cura, deve essere soprattutto un piacere. Vi segnalo, per non dimenticarci mai di quello che sta succedendo a Roma, di come la capitale debba ancora trovare un suo governo forte per risolvere i problemi. In un'intervista a Paolo Berdini, che è l'assessore e anche vice assessore all'urbanistica del Comune di Roma, che parla di tantissime cose con Sergio Rizzo a pagina 11 del Corriere della Sera, e il Corriere sceglie di titolare sulle parole che riguardano la possibile costruzione dello stadio della Roma, e dice: il sì del Comune arriverà, però se tagliano 200.000 metri quadri. E però parla anche di moltissimi altri argomenti per cercare appunto di far capire che si sta lavorando su molti fronti nella Giunta Raggi. Ultimissima segnalazione che riesco a farvi, sempre dal Corriere, sul tema Brexit, perché il Corriere ha individuato alcuni italiani che vivono da molti anni a Londra e si chiede cosa faranno questi italiani. Ottenere la cittadinanza nel Regno Unito si sta rivelando difficile, ma senza non si potrà restare i drammi e le scelte dei connazionali. Era veramente l'ultima segnalazione, un grazie a Peter Bescapè in regia. Noi, se volete, ci sentiamo domani verso le 6:15 per una rassegna europea, verso le 7:30 per una dei settimanali, e per chi non appunto con chi non ci risentiremo, tantissimi auguri a tutti per una buona fine d'anno e un ottimo inizio di 2017.